perdonare. L'amico che poi torna, sai, pentito più che mai. Nessuno vuole odiare, sai, se amato lui sarà. Segui i passi e di tutto addio. Vivi le parole che lui stesso ti dà già. Se il mondo resta fermo, sai, un motivo c'è. Ma il tuo mondo con il Cristo un passo avanti. D'odio sai, tutti gli uomini si amanti poi cambieranno come noi, con la tenerezza tutto può cambiare, insegnando all'uomo quello che c'è da capire. Ogni uomo al mondo sai, di Gesù non scorda mai la parola che poi arriva in fondo al nostro cuore.